Allora, sfumiamo questa musica che ci ha permesso di tornare nell'esatto orario, con le 15:01 adesso. Dunque, abbiamo fatto nella prima parte, ossia abbiamo dato un po' di saluti, di auguri a coloro che stanno in carcere, che questo 2017 non vi veda più là dentro ma fuori, e a coloro che invece non ci sono ancora entrati o comunque sono momentaneamente fuori. Una volta si diceva ironicamente e anche un po' per sotto, quelli fuori sono in libertà vigilata, cioè sono in libertà ma non è proprio tanto libera. Comunque andiamo a lasciamo stare queste cose, auguriamoci tutti e tutte un anno più libero del precedente. Ma perché sia più libero, ovviamente non dobbiamo aspettare che caschi la manna dal cielo o che venga da qualche parte, ma ovviamente dipende soltanto da noi. E quello abbiamo detto e gridato fuori da Re Bibbia il 31 mattina, primo pomeriggio, a metà giornata, perché oltre gli auguri, tutto il resto, e dire quanto è brutto il carcere, le condizioni, questo ormai lo sanno pure i sassi, però il problema è che come mai... Nelle carceri, a differenza di alcuni decenni fa, non c'è più quelle lotte intense che permettono di mettere in luce problemi, in parte anche di affrontarli e in parte anche di risolverli. Non c'è ancora. E perché cosa manca? Manca semplicemente una cosa: l'organizzazione interna dei detenuti, e l'altra cosa è il rapporto molto intenso tra dentro e fuori. Due cose, non tutto il resto sono chiacchiere inutili. Servono queste due cose, due ingredienti. Serve appunto uno stretto contatto tra dentro e fuori, ma soprattutto un livello di organizzazione interna, cioè all'interno i detenuti, come vuole il sistema carcerario, non devono essere, appunto, come vuole il sistema carcerario, divisi, ciascuno l'un contro l'altro, ciascuno individualizzato individualmente in rapporto alla direzione, ma collettivamente organizzati. Considerate che le tesi, gli scritti, le teorie del carcere dicono proprio il contrario, dicono che il carcere nasce per correggere quelli che hanno sbagliato, no? Questo è il discorso, come se fosse una macchina, si è guastata, vai dal meccanico, ti leva un pezzo, lo sostituisce e la macchina funziona. Il ragionamento è questo, perché non è caso è nato il carcere, cioè si è perfezionato in questa funzione. Prima era punitivo, no? I mendicanti li buttiamo dentro, perché poi man mano nell'era della nascita dell'industria, abbiamo detto mille volte questa cosa, la ripeteremo fino alla nausea, perché finché le persone non si rendono conto, tutti quanti, no? E tutte quante non ci rendiamo conto che il carcere e la modernità e la fabbrica e l'industria sono nate contemporaneamente, e l'una per sostenere l'altra per sostenere l'una. Appunto, l'industria che cos'è? Macchine, meccanica, messa insieme di macchine, no? Assemblaggio di pezzi, eccetera. Costruzione di pezzi e assemblaggio, costruzione di strutture unici, diciamo, semplici, e poi rese più complesse nell'assemblaggio. Questo è un po' il meccanismo della meccanica. Ecco, loro hanno pensato che il corpo umano, la mente umana, fosse qualcosa di analogo. Quindi il carcere serviva per, come il meccanico fa per una macchina guasta, corregge, leva alcuni pezzi, leva il male, la cosa cattiva, quello che fa trasgredire il contratto sociale, che vuole il potere sempre al potere e il miserabile sempre il miserabile, e quindi è trasgredire il contratto, io ti aggiusto e ti torno. Vabbè, questa è la follia, che è una follia che dura tuttora, perché il carcere a questo serve. E in questa follia che è il carcere, oggi, in questi giorni, e per cui dicevamo prima, anche a volte partendo da fatti che non hanno a che vedere specificamente col carcere, il carcere emerge come centralmente. In questi giorni tutti quanti siamo siamo immersi in questo mare dei media, televisivi e altro, quindi che cosa vediamo, che cosa nelle nostre orecchie ha rimbalzato, che cosa? Il terrorismo jihadista, islamico, l'ISIS, attentati, Berlino, Turchia, attentati sventati, attentati riusciti, morti, massacri, c'è terrorismo, jihadismo, estremismo islamico, queste sono le parole che hanno risuonato più che in altri periodi in questo ultimo ultimi giorni del 2000 e 16 e l'inizio del 2017. Bene, queste tesi, queste parole, estremismo jihadista, terrorismo jihadista islamico, hanno riportato al centro il problema del carcere. Perché è stato subito trasformato, queste due parole appunto, jihadismo, estremismo islamico, terrorismo jihadista eccetera, si è detto da più parti che questo terrorismo, questi terroristi che fanno questo, diventano tali in carcere. È successo perché quello che ha fatto l'attentato in quella di Berlino era stato 4 anni in carcere, si era più o meno girato tutte le carceri della Sicilia, così raccontano le cronache dei giornali, che ne fa. E non solo lui, tanti altri hanno detto, tutti, poi ovviamente subito generalizzano, ma una buona parte delle persone ritenute responsabili degli attentati degli ultimi periodi si sono estremizzate. Qui è venuto questo termine nuovo, non è nuovo perché è stato usato sbagliato, ma non vuol dire niente, no? Però sono questi neologismi che prendono, si è estremizzato in carcere, vuol dire le persone entrano in carcere normali e in carcere diventano terroristi islamici, in modo che appena escono vanno a fare, no? Già questo, ecco, se prima riflessione che vogliamo fare insieme a voi. Allora, se le parole significassero la rappresentazione della realtà, così dovrebbe essere, e anche del nostro pensiero, unendo le cose, se è vero che in carcere c'è il rischio di estremismo islamico, stiamo leggendo da articoli giornali, ne abbiamo selezionati alcuni, poi proviamo a raccontarli, a vedere un po', a girare in mezzo. Dunque, se nel carcere c'è il rischio di estremizzazione dei detenuti, in modo che entrano normali, tra virgolette, come sono, come dicono loro, e escono terroristi, estremisti, evidentemente il carcere fa male e quindi andrebbe abolito. Cioè, se queste parole che dicono, che le trovate su tutti i giornali, sui siti web, ovunque, ne parla il capo del governo, il capo del mondo, tutti i vari dirigenti, ma anche la massaia, ma anche il pizzicagnolo, anche il droghiere, anche tutti quanti, dicono che gli estremisti, i terroristi islamici sono estremizzati in carcere durante la loro permanenza in carcere. Se queste persone credessero a quello che dicono e ci fosse una rappresentazione razionale tra quello che si dice e quello che poi si fa, è chiaro che il carcere sarebbe già stato abolito immediatamente, subito, perché immaginate lo stesso ragionamento sul cibo. Uno ti incontri per strada e ti dice: sono stato male una settimana, vomitato, perché ho mangiato questo cibo qua, chiamiamolo X. Questa persona qui quel cibo X non lo mangia più, lo butta via, è ovvio. Questa cosa gli ha rovinato il fegato, lo stomaco e la pancia, è chiaro che la butta via, non la mangia più. Se una cosa fa male e produce terroristi, come ci dicono tutti i giornali, perché tenerla ancora in piedi? Domanda, rivolgetela a tutti i grandi soloni che in questi giorni di fine anno sono venuti a girare nelle carceri, perché oltre ai soliti radicali, che ormai lo fanno per abitudine, è una buona abitudine ovviamente di andare a trovare, a visitare in giorni particolari, in genere Natale e Pasqua, i detenuti, a volte anche Ferragosto i detenuti sono nelle carceri, tutti gli altri non lo fanno come consuetudine. Ma ogni tanto in questo periodo, siccome c'è il problema che nelle carceri nasce, così dicono i giornali, il terrorismo islamico, allora sono andati a vedere in carcere, a scoprire. Ora, perché qualcuno, se state in carcere, il prossimo che viene, gli dice: senti, ma voi dite, leggendo i giornali e vedendo la televisione, io ho capito che la maggior parte, comunque moltissimi di quegli terroristi islamici che hanno fatto tutti quei massacri eccetera, si sono estremizzati in carcere, quindi il carcere ha fatto diventare delle persone normali terroristi, e perché non l'abolite? Fategli questa domanda, vedete che cascano come delle pere cotte dal soffitto. Allora, continuiamo perché è interessante questa cosa, no? Ora vedrete che o cascano come pericotte, li trovate per terra stramazzate, ma siccome non sono nemmeno sinceri nel loro ho toppato, non sono sinceri questi che diciamo coloro che dicono di occuparsi degli altri e che lo fanno appunto per mestiere politico, no, in realtà troveranno tante gabole, quindi faranno un discorso lungo, confuso, che non ci avrà né capo né coda, e vi diranno che invece il carcere va mantenuto purtroppo accettando il rischio di estremizzazione, questa parola così, vabbè, insomma, questo è l'assunto, cioè l'affermazione che, da cui tutti partono, è che in carcere i detenuti islamici, sì, a volte nemmeno ancora non islamici, in carcere dei detenuti che sono entrati per furto o altre cose, diventano musulmani, islamici, loro dicono, perché ormai questo termine è islamico, diventano islamici, poi diventano jihadisti, cioè accettano questo credo estremista, e diventano terroristi, e quindi appena escono fanno quello che devono fare. Questa è la tesi che si afferma, sta su tutti i giornali, se la vedereste. Poi sui numeri c'è un po' di confusione. Allora, alcuni, il Mattino, per esempio, di Napoli dice 373 detenuti contagiati, cioè dall'ISIS, cioè in carcere 373 detenuti sono stati contagiati, hanno preso questo morbo che si attacca come l'influenza, no? Come, contagiati dall'ISIS. E 373 dice sono stati già contagiati, non so come fanno a definire questo numero così preciso, che sono stati contagiati, e 650 sono a rischio estremizzazione. Lo dice il DAP, il Dipartimento della Sicurezza, non l'ultimo arrivato, quindi è un dato ufficiale che, perlomeno secondo il Mattino, sono dati che gli danno funzionari del DAP, quindi di tutto rispetto, gente che piglia pure un notevole stipendio, che ha coi soldi nostri, prendono e sparano queste cose. 373 sono contagiati. Io vorrei sapere, vorrei domandare, come fanno a sapere i detenuti che sono contagiati dall'ISIS? Perché se uno è contagiato dall'influenza si capisce, c'è la febbre, il mal di gola, febbre, occhi rossi, normale, cioè, e le altre malattie pure. Sì. Il contagio di qualche morbo si vede, ma contagiare l'ISIS che vuol dire? Un giorno glielo chiederemo e ce lo spiegheranno. Questi funzionari del DAP, cioè, hanno detto questi dati, e allora c'è tutto questo si lega al fenomeno di radicalizzazione, oltre che estremizzazione c'è anche radicalizzazione, questi due termini che sono la chiave della realtà di oggi, e il proselitismo in carcere. C'è tutta una relazione aggiornata al 2016 fatta da sempre il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Vi sono anche quattro donne di questi 373 radicalizzati, estremizzati in carcere. Poi il Mattino sempre dà la voce a un'altra persona autorevole di grossa importanza, no? Non l'uomo della strada. Franco Roberti è procuratore nazionale antimafia. Procuratore nazionale antimafia, non è l'ultimo arrivato, che dice, allora, lui ha preso la guida e i dati della Direzione Nazionale Antimafia che lui dirige, e dice c'è una contiguità, cioè stanno attaccati, tra estremismo islamico e mafia. Secondo il procuratore, sto leggendo, secondo il procuratore, le storie personali dei più giovani militanti islamici fanno intuire, grande intuizione, come mafiosi e terroristi non siano poi così diversi. Hanno lo stesso modus operandi, gli stessi interessi criminali e spesso collaborano tra di loro. Altra grande scoperta, cioè l'estremismo islamico e i mafiosi sono contigui, cioè uno passa dall'uno all'altro, contigui vuol dire questo, che uno è talmente vicino, due persone contigue o due soggetti contigui, no? L'uno si trasferisce nell'altro, l'altro nell'uno, e più o meno fanno le stesse cose. Lui dice che poi non solo che oggi ne dice di grandi, tutto questo è sul Mattino del 31 dicembre, pochi giorni fa. Non solo, lancia un messaggio, dopo aver detto queste grandi verità, lancia un messaggio e dice che bisogna prevenire che cosa? La radicalizzazione o estremizzazione dei giovani musulmani. Ecco. È la la questione fondamentale, sostiene il procuratore in un'intervista a Repubblica di qualche mese fa, quindi la riprendono per, l'attualizzano perché gli domandano se vale ancora quel dato. Lui, Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia, dice, cito un dato allarmante che mi è stato trasmesso pochi giorni fa, metà dei reclusi nei penitenziari minorili italiani sono musulmani. Allora, procuratore nazionale antimafia dice che nei carceri minorili, dove ci stanno le persone di sotto, uomini e donne, al di sotto dei 18 anni, la metà dei reclusi sono musulmani. Oh, sul minorile, che tra l'altro quando si parla delle prigioni minorili bisognerebbe pensare un attimo un po' per evitare di essere una carogna di quelle finite. Già è molto duro tenere dei ragazzi e delle ragazze minori dentro un carcere, ma l'abbiamo spiegato più volte da questi microfoni che cos'è il carcere minorile e chi ci sta dentro e perché ci sta dentro. Bene, ne facciamo un breve riassunto di poche parole per capire che qui c'è qualcuno, ci sono persone anche autorevoli di alto grado che comandano in questo paese, hanno ruoli di direzione, insomma, che veramente parlano a vanvera, per non dire qualcosa di peggio. Nel carcere minorile, cioè la legislazione per i minori in Italia, hanno provato a modificarla in peggio molte volte, per fortuna ancora non ci sono riusciti. Non è una delle peggiori, forse è una delle migliori a livello europeo. Perché? Dice che se un minore fa un reato, prima di mandarlo eventualmente in carcere, bisogna seguire tutti i percorsi di misure alternative alla detenzione messe in atto per i minori in particolare. Sono oltre quelle regolari, normali per tutti, semilibertà, condizionale, affidamento in prova di legge, anche alcune specifiche, le case di accoglienza e strutture, le numerose strutture di accoglienza, dove, che non sono un vero e proprio carcere, ci stanno degli assistenti sociali che si rapportano a questi ragazzi o ragazze e comunque evitano l'impatto al carcere e cercano di seguirli nella loro vita giornaliera per cercare di capire come mai hanno imboccato quella strada. Comunque è una situazione nettamente migliore del carcere. Solo che queste strutture qui, per poter accogliere i ragazzi o le ragazze che hanno fatto che hanno violato una legge, devono avere delle caratteristiche, questi ragazzi o ragazze. Devono avere una famiglia che in qualche modo si renda responsabile di questo percorso alternativo al carcere, una dimora, una casa regolare, e queste due cose sono quelle che mancano ai ragazzi minori non italiani. Lui dice musulmani, ma chiaramente, come al solito, sono parole dette così. I ragazzi, l'abbiamo detto più volte, più della metà dei ragazzi e ragazze minori nelle carceri minorili italiane sono non italiani, per questo motivo, perché gli mancano queste due caratteristiche. E poi ce n'è una terza, cioè le due, le ripetiamo, sono quelle che non hanno una dimora precisa, perché spesso sono figli di immigrati, oppure hanno perso la madre, il padre, per tutte le vicende dell'immigrazione, che sono veramente una delle peggiori porcherie che questo paese e tutti gli altri paesi europei stanno compiendo in questa fase, al pari delle storie più brutte dell'Europa, paragonabili veramente al periodo nazista, fascista, perché stanno facendo delle porcherie inaudite. Beh, per tutte queste porcherie che si fanno, spesso i ragazzi perdono il padre e la madre, o tutte e due, o una dei due, insomma, e rimangono in balia così, e quindi comunque non è, o anche perché, avendo anche il padre e la madre, non hanno la possibilità di pagare un affitto e quindi vivere un regolare appartamento, vivono così situazioni di fortuna. Dunque, l'altro dato è che appunto a volte gli manca proprio la famiglia che si renda responsabile. Il terzo elemento che fa riempire di ragazzi non italiani il carcere minorile è l'assenza di un avvocato che possa seguire, no, il ragazzo o la ragazza che ha trasgredito la legge in questi percorsi di affidamento, non in carcere ma in situazioni alternative. Avvocati costano, lo sapete benissimo, e quindi questo è il motivo per cui ora un procuratore nazionale antimafia, magistrato importante, possibile che non sappia queste cose? Le sa, certo che le sa, ovvio che le sa, non vogliamo fargli questo insulto, le sa bene, ma perché non le dice? Perché non le dice? Cioè sta dicendo un dato, dice, cito un dato all'armadio, io sto leggendo al Mattino, ora ha detto queste cose, se non ha detto queste cose dovrebbe denunciare il Mattino per farsi, ma cito un dato all'armante che mi è stato trasmesso, a parte che all'armante si sa da sempre, noi lo ricordiamo da decenni, da quando siamo seduti davanti a questo microfono, diciamo che il carcere minorile ci sono in prevalenza non italiani per queste ragioni che bisogna rimuovere, bla bla bla, che nessuno rimuove, però comunque per attivare le persone intelligenti a lottare per cambiare queste situazioni, perché mandare un ragazzo o una ragazza in carcere è un'infamità, no? E quindi si potrebbero attivare tipo avvocati gratuiti, dimore regolari, eccetera, perché possano godere anche loro di tutta la struttura alternativa. Comunque, il signor Franco Roberti, il magistrato Franco Roberti, queste cose le sa, sicuramente le sa. Perché non le dice? Quando dice mi è stato trasmesso un dato che i penitenziari, poi per chiamarli penitenziari, le carceri minorili italiane in prevalenza sono musulmani. E perché non dice anche il perché? Che lo sanno tutti quelli che si occupano di queste cose. Va bene, poi dice appunto in cella, sempre al minorile, ci sono circa 500 ragazzi, poi abituati a stare su internet come tutti i loro coetanei. E qui scopre l'altra grande... ci stanno 500 ragazzi in carcere, ma internet quelli che stanno in cella non ce l'hanno. Comunque, per questo possono facilmente entrare in contatto con siti che predicano la jihad, sono a rischio altissimo di radicalizzazione. In Italia pensiamo di correre pericoli inferiori ai francesi e belgi, però la comunità musulmana del nostro paese è diversa. Le seconde, qui parla che sono le seconde generazioni, no, sono ancora adolescenti, se non interveniamo subito tra 5 e 10 anni ci troveremo nella stessa situazione di Bruxelles o delle banlieue parigine. Anche questa cosa, insomma, allora lui ha scoperto queste due cose, la radicalizzazione di questi soggetti che poi diventano terroristi, una è il carcere e l'altra è la internet. E come fare a levare il carcere? Non ci pensa nemmeno. Levare internet nemmeno lo dice, ma dice che bisogna pensarci, perché ci sono un sacco di proposte fatte da varie parti che dicono di mettere dei controlli, dei filtri, delle cose spavento, cioè mettere la censura su internet, e prima o poi ci arriveranno a fare. È difficile come strumento, come struttura internet a essere censurata, però probabilmente lo faranno prima o poi, vabbè. Poi la novità, perché il giornalista chiede vabbè, ma che possiamo fare visto che il carcere si può abolire, perché ci mancherebbe altro, internet nemmeno, quindi che facciamo? Allora lui dice la soluzione è questa, bisogna portare alcune contromisure operative, ossia le seguenti: smontare e neutralizzare la propaganda dell'ISIS, offrendo al contempo modelli culturali alternativi. La metodologia da adottare dovrà essere basata su una metanarrativa che utilizzi messaggi, simboli semplici, chiari ed indirizzati a un pubblico giovane di istruzione medio-bassa, socialmente borderline. Cioè questi sono stupidi, ignoranti, sono borderline, cioè mezzi sciroccati, quindi dobbiamo dargli dei messaggi con simboli semplici, dobbiamo un po'... È abbastanza insultante questa cosa, francamente se l'avesse detto una persona di fronte a me gli avrei dato dell'imbecille, l'avrei anche forse, non dico presa a schiaffi perché non si può fare, però ha detto ti tolgo il saluto, perché come si fa a dire che questi ragazzi sono borderline, hanno una istruzione medio-bassa, ma vabbè, pensa alla tua istruzione, no? Comunque vabbè, infine bisognerà utilizzare la tecnica dei media mix, pubblicazione su giornali e online, sui social network, eccetera, eccetera, predicazioni, bisogna inserire su questo la predicazione di imam moderati. Questa è l'altra grande scoperta. E questa scoperta di affidarsi ai imam moderati pare che sia stata la scoperta del secolo, cioè di questi tempi. Veramente. In Francia hanno fatto già, in Francia, e questi giornali italiani riprendono, hanno fatto una specie di università, cioè un centro, una struttura pubblica che forma imam moderati, cioè i musulmani, chi decide, chi vuole fare l'imam va lì, fa un corso universitario, ovviamente della teologia islamica, immagino, e viene indirizzato a una predicazione moderata. Questi poi vengono presi e mandati in carcere, non in carcere arrestati, in carcere a fare i predicatori moderati. Pensate che si sta inventando. Questa è partita, da quanto mi risulta, è partita dalla Francia, poi si sta diffondendo in tutta Italia. I francesi, come di chiamarle, non voglio offendere nessuno, però insomma, non è la prima volta che abbiamo avuto Gobineau, che lo inventò il razzismo francese, cioè tante baggianate, diciamo così. Oggi siamo all'inizio dell'anno, non usiamo il turpiloquio, ci costringeranno nei giorni successivi. Diciamo, queste baggianate, i francesi sono molto bravi a produrre, ne hanno prodotte tantissime. Per esempio, quando si sono inventati che l'Algeria era territorio francese, dice, qui vogliono l'indipendenza questi, questa è l'Algeria, è territorio francese, è chiaro a tutti, basta vedere la carta geografica. Questi di cavolate ne hanno dette tante. Quelle di Gobineau, leggetelo, che è una cosa strepitosa, no? Che è la teoria, i principi teorici del razzismo, del fatto che ci sono delle differenze e ci mancherebbe altro. Allora, chi riprende questo discorso che servono gli imam negli istituti, quelli moderati ovviamente, è anche un altro, uno psicologo, Marco Cannavici, no? Che però viene intervistato da qualche giornale e dice bisogna prevenire l'estremismo jihadista che prolifera sul web e nelle galere. L'estremismo jihadista nelle galere è spaventoso, ma perché non le chiudono? È la cosa più semplice. Internet non è facile chiudere, non si può, perché c'è un sacco di impicci. Tra l'altro porta profitti enormi, quindi ti pare che le multinazionali lo fanno chiudere, ma il carcere non porta questi grandi profitti. Si potrebbe benissimo chiudere, no? È quello che diciamo da tanto tempo, che molti prima di noi l'hanno detto. Quindi si chiude il carcere e abbiamo letto una cosa. Quindi l'estremo jihadista, il terrorismo non si produrrà più perché tu hai chiuso le prigioni. Dice, che fai in alternativa? Le sanzioni possono essere tante, economiche, amministrative, togli la patente, fai queste cose qui. No, invece del carcere, oppure appunto i lavori di pubblico utilità. I parchi italiani e le strade italiane ne hanno di bisogno di manutenzione, e perché no? Quindi si chiudono le carceri, sarebbe, uno potrebbe dire, vabbè, ma il ragionamento, dicono che l'essere umano è razionale, questa è una delle più grandi stupidità, non è vero, perché se fosse razionale avrebbe detto di, vabbè, lo stanno dicendo tutti, in carcere si produce l'estremismo islamico. Vengono contagiati i bravi ragazzi dallo jihadismo, dall'ISIS, e diventano terroristi. Quindi chiudiamo il carcere. Niente, avremmo risolto il terrorismo, il problema del terrorismo, non c'è più il luogo dove si formano. No, non lo fanno. Poi mi dovete spiegare perché. Se ci avete brillanti idee, le potete scrivere alla mail di questa trasmissione, che è la conta, tutto attaccato minuscolo, @ondarossa.info, no, info. Scrivete e ditemi, per rispondere a questa, ma io non voglio rispondere, perché non è possibile. Mi dovete dire come mai che tutti i giornali politici, grandi politici, eccetera, eccetera, grandi, piccoli, medi, di destra, di sinistra e di centro, dicono che il terrorismo jihadista si forma in carcere. E allora uno dice, perché non chiudi le carceri? Scusa, una cosa produce bruttura, sai, i massacri sono veri, sono drammatici, sono spaventosi, la gente soffre, quella colpita. E perché non chiudi il carcere? Così gli togliamo una stampella, ce n'ha due, no? Internet e il carcere. Intanto togliamogli quella del carcere. Internet sarà più difficile, però poi almeno già una. Si dimezzeranno. No, non lo fanno, e me lo dovranno spiegare. Se voi avete idee, scriveteceli. Allora hanno detto, nel frattempo, visto che non possiamo chiudere l'uno e l'altro, servono gli imam moderati e preveniamo l'estremismo jihadista. Poi questo qui, che è una persona illuminata, questo psicologo Marco Cannavici, dice... Poi attenzione, i soggetti radicalizzati o a rischio terrorismo, per loro il carcere duro non serve, e nemmeno l'isolamento, anzi queste cose li radicalizzano ancora di più. E te credo, se uno il carcere duro, l'isolamento come minimo ti fanno incazzare, se non ti impicchi dopo che hai fatto il carcere duro e l'isolamento, e quindi se ne esci vivo, è chiaro che sei incazzata come una biscia, e quindi ovviamente non puoi pensare che fai no, la dama di carità. Questo è abbastanza comprensibile, vabbè. Quindi non serve nel carcerone l'isolamento, servono invece far entrare nelle prigioni imam e guide religiose islamiche moderate. Così come prima, nel tempo passato, abbiamo fatto entrare preti e frati, ne hanno convinti tanti. Immaginate, dunque, che è stato in carcere, scusate la piccola risata, ma preti e frati, io l'ho visti nei carceri, anche monache, e insomma vi devo dire che sì, ne hanno convinti tantissimi. Dunque, questo è psicologo e criminologo, quindi sa bene di cosa parla. È uno dei 19 componenti della speciale commissione che domani questo è del 4 gennaio, quindi è di oggi questo che sto leggendo. Quindi domani 5 gennaio questa commissione, fatta di 19 membri, consegnerà al premier Paolo Gentiloni, capo del governo, una prima relazione su come prevenire l'estremismo jihadista. Insieme a lui, cioè a questo Cannavicci, ci sono altre 18 persone che sono professori universitari, giornalisti, esperti di sicurezza, che per 4 mesi hanno ascoltato i referenti delle comunità islamiche, hanno ascoltato il ROS dei carabinieri, la polizia, gli imam, i merci del DAP e così via. Vabbè, quindi sanno tutto, gli presentano questa commissione in cui dice come farà, visto che il carcere non si può chiudere e internet nemmeno, allora porteremo in carcere gli imam e le guide religiose moderate, così come hanno salvato il carcere dalle rivolte, dalle stazioni, preti e frati. Non so dove l'hanno letto che i preti e frati hanno addolcito la situazione carceraria, però ha detto così, quindi se lo sanno, figurate, questi sono intellettuali, professori, universitari, esperti di sicurezza, e quindi ci dicono che come in passato preti e frati hanno reso il carcere accettabile, ci hanno levato gli estremismi, adesso faremo entrare imam moderati e guide religiose islamiche altrettanto moderate. Hanno scoperto tutti. Poi c'è un'affermazione: il radicalismo in Italia fiorisce grazie a due principali fonti di interpretazione, le carceri e il web. Questo ci avevano detto, sono 25 volte che lo spiega. Secondo i dati forniti dal DAP, su 54.000 detenuti nelle nostre prigioni, ce ne stanno 54.000, 18.000 sono stranieri. Bravo. Questo, di questi 11.000 sono musulmani e 300 sono quelli monitorati con attenzione perché vicini a posizioni radicali. Quello che abbiamo letto all'inizio, che sono 373 quelli contagiati che hanno preso questo virus dell'ISIS, sono attenzionati, come dicono i grandi strateghi della sicurezza. E infatti porta il caso di questo Anis Amri, eccetera eccetera, anche lui, siccome è stato 4 anni in carcere, apri il cielo. Questi, tra l'altro, lui è stato, qui ci dice, ci ricorda che ha scontato questi 4 anni nel carcere di Catania, di Enna, di Sciacca, di Agrigento e di Palermo. Almeno gli diamo questi 4, no? C'è la prova provata che Anis Amri, quello dell'attentato a Berlino, di quel massacro a Berlino, era stato in questi 5 carceri. Chiudiamo, almeno gli diamo questi 5 e vediamo che cosa. Tant'è vero, perché ci ricordano qui i valenti giornalisti, che non gli sfugge niente, sono terribili, mamma mia, che da carcere di Catania sarebbe, poi non ho capito perché il condizionale, o è partita o non è partita, sarebbe partita, cioè c'hai la caro giornalista, secondo qualcuno ti ha detto, un funzionario del carcere di Catania, che è partita un'informativa su questo Amri, oppure non è partita? O è partita o non è partita l'informativa, invece sarebbe partita, che si può dire questo condizionale. Ma è un'informativa per segnalare che il soggetto, sia Anis Amri, era pericoloso. Lui spiega e ci spiega: probabilmente in Germania e in Francia non hanno prestato la stessa attenzione che Amri ha ricevuto in Italia. In Italia è stato molto attenzionato, a voglia. Non è un mistero che le nostre capacità investigative, dice questo psicologo criminologo, le nostre capacità investigative perfezionate nella lotta alla criminalità organizzata possano contare su strutture efficientissime come il ROS dei carabinieri, che in altri paesi d'Europa non esistono perché non valgono niente gli altri. Questa, poi Ah, poi dice lui, essendo acuto, dice: come fate a riconoscere, volete un suggerimento, come fate a riconoscere quelli che sono a rischio di radicalizzazione? Vedete i festeggiamenti che fanno durante, quando ci sono a ridosso di attentati. Se festeggiano durante attentati possono, ma non è preciso, che come uno è scientifico, dice, ma questo dato da solo non significa niente, il festeggiamento dell'attentato, perché può essere dettato da ribellione, protesta, rivincita. Quello che va monitorato attentamente è il cambiamento dell'atteggiamento religioso. Se da un blando, se da blando, come in Italia religiosi non gli frega niente a nessuno, diventa attento, formale e rigoroso, a quel punto va attenzionato ancora di più. Oh, poi dice, qui ci stanno, cioè il sistema carcerario italiano si è mosso in due modi rispetto a queste persone attenzionate di pericolosità, a rischio di contagio estremista terroristico. Che cosa fanno? Ci stanno due, o l'isolamento o il concentramento, cioè o li isolano uno in una cella, sperduto, isolato, eccetera, cioè, oppure metterli tutti insieme e controllarli attentamente. In Italia ha prevalso il secondo, quello della concentrazione, tant'è vero che è stata creata la cosiddetta Guantanamo Calabra nel carcere di Rossano, ma non è l'unico, ce ne stanno anche altri, ma dice il DAP non ci dà tanti elementi su questo. Invece dice non va bene questa cosa qui, bisogna, l'unica soluzione è sempre far entrare delle guide religiose moderate, altamente moderate, nelle carceri. Ancora, qui ci sarebbe da fare un'enciclopedia, e c'è da, purtroppo si parla di questioni dove c'è gente che muore, che si fa male, massacri, però se no ci sarebbe da ridere della stupidità di coloro che affermano cose su questa. Allora, il fondamento islamico, qui siamo un'altra parte, prolifera grazie anche, qualcuno la porta su un piano sociale, Lettera 43, un network che ci sta su internet, in online, dice il fondamento islamico prolifera grazie all'esclusione sociale. Garantire la libertà religiosa può contrastarlo, cioè lui dice bisogna fare il contrario, ma anche qui, ma non senza un'assistenza qualificata, e quindi non bisogna assolutamente, la marginalità, l'esclusione sociale, infine il carcere sono proprio luoghi che favoriscono l'incazzatura e quindi l'estremizzazione. Vabbè, questa dice una cosa abbastanza ovvia, carceri sovraffollate, rabbia, frustrazione, covano all'interno delle quali si mischia ogni forma di violenza, sopruso, criminalità, estremismo religioso, viene un mix che viene fuori tranquillamente, un po' semplicisticamente, però comunque ha detto che sicuramente il carcere non fa bene. E poi ci sono le moschee, che vanno controllate, quelle clandestine sono già super controllate, bisogna controllare quelle regolari. Vabbè, allora prendiamoci un attimo stacco musicale, perché qui a leggere queste cose. Allora, andiamo avanti. Intanto abbiamo fatto le 15:43. Il tempo passa. Vabbè, ci sarebbe da fare serate di divertimento sfogliando i pezzi dei giornali oppure pezzi presi dalla televisione su questa vicenda qui, ma tanti hanno scritto, tantissimi, si fa appunto un'enciclopedia. Vabbè, l'altro fatto connesso a questo, perché l'estremismo, la radicalizzazione, estremizzazione viene da chi? Dai migranti, è ovvio, no? Quindi bisogna bloccare anche qui i migranti. Cosa fare? È partito il ministro degli interni, Minniti, Marco Minniti. Un CIE in ogni regione, spara lì, succede il finimondo. Qui dice di sì, chi dice di no, chi dice lì tutto un dibattito spaventoso. Mettiamo i CIE, no, non vanno bene, bisogna fare i CIE più piccoli, insomma, interviene pure Gabrielli con una circolare, Gabrielli il capo della polizia, per il controllo nelle città vanno schierati cecchini, droni e metal detector. Quindi attenzione ai cecchini, camminate, quando camminate fischiate, perché qui ci stanno i cecchini sui tetti e qua capace di fare una mossa strana e il cecchino è una persona, non è un che ne sappiamo. Attenzione ai cecchini, perché qui li sparano, poi stanno pure i droni, va a sapere, insomma, e i metal detector vi fanno meno male. Allora, subito dice il signor Gabrielli, che abbiamo conosciuto perché è stato anche a Roma, ha avuto funzioni importanti, ha fatto rinascere la città, scusate la battuta, lo conosciamo però anche perché è stato a Roma, e dice subito controlli e rimpatri, queste parole, rimpatri. Oh, intanto c'è da dire, qualcuno ricorda che in realtà in Italia finché c'è il reato di clandestinità non è possibile il rimpatrio, ovvio, no? Sì, non c'è bisogno di una grande giurista per spiegare che se tu mantieni un reato penale o anche soltanto si parla di depenalizzare, anche soltanto non penale ma amministrativo oppure di carattere economico, se tu mantieni un reato, se chi emigra clandestinamente comunque fa un reato, è un reato questa immigrazione clandestina, è chiaro che poi tutto il meccanismo per vedere se l'ha fatto veramente, se c'è le condizioni, le aggravanti, le attenuanti, va espletato nel territorio italiano, perché qui è avvenuto il reato, comunque laddove c'è stata l'immigrazione clandestina, quindi deve rimanere qui in attesa che vengono espletate tutte le pratiche, testimonianze, impicci, per definire l'ambito del reato. Quindi molti gli ricordano, a tutti questi grandi signori, Gabrielli, Minniti, eccetera, che in realtà, stante il reato di immigrazione clandestina, non è facile rimpatriare le persone. C'è anche un'altra difficoltà: il rimpatrio può avvenire se c'è un accordo bilaterale tra il paese che rimpatria e quello che accoglie il rimpatriato. Un accordo, non c'è una direttiva internazionale, non ci può essere, gli stati esistono ancora, hanno le loro leggi, quindi soltanto con un accordo bilaterale tra, in questo caso, l'Italia e il paese dove tu vuoi rimpatriare la persona immigrata. Quindi questo è una cosa enorme, quindi anche questo sparare sul rimpatrio, controlli e rimpatri, è un po' una butad, diciamola alla francese, no? Sempre oggi per evitare il turpiloquio, perché all'inizio dell'anno non sta bene, dopo si può fare. E quindi niente, deve, qui sempre si riferisce, c'è stata una rete, dice, che ha favorito la fuga dell'attentatore Anni Samri, e quindi fa Franco Gabrielli, il capo della polizia, dirà una circolare urgente per effettuare attività di controllo straordinaria per un'azione di prevenzione e contrasto a fronte di un crescente pressione migratoria e di uno scenario internazionale connotato da instabilità e minacce. Vuol di tutto e vuol dire, che vogliono dire queste parole? Che vuol dire una azione di prevenzione e contrasto a fronte di una crescente, cioè, parole in libertà. Libertà non ci piace, però sai, parole bisognerebbe essere più attinenti alla realtà. Però comunque. Oh, poi Marco Minniti, appunto il ministro degli interni, dice entro poche settimane apriremo a un altro CIE, ce ne dovrà essere uno in ogni regione. Poi qui tutta viene fuori la polemica, non vanno bene gli CIE, dimostrati un fallimento i CIE attuali, quindi vanno i nuovi CIE che devono essere più piccoli, diffusi nel territorio, non questi grandi che hanno dimostrato che non funzionano, capienze molto ridotte, eccetera, eccetera. Vabbè. Attualmente poi ci dice che i CIE possono ospitare 1600 persone, ma i posti disponibili per difficoltà di non so, una serie di difficoltà, i posti disponibili sono 360. Quali saranno i problemi? E poi Gabrielli ci specifica in questa lunga circolare che dovrà essere la direzione centrale dell'immigrazione per l'immigrazione a occuparsi del coordinamento con le questure per l'assegnazione dei posti nei CIE, tenendo conto della complessità e articolazione del dispositivo che, anche in ragione dell'eventuale numero di stranieri irregolari rintracciati, può rivelarsi complesso e delicato sotto il profilo organizzativo per i conseguenti riflessi sul piano dell'ordine e della sicurezza. Mamma mia, cioè, ora qualcuno dirà: ma non sai legge, dirà a me, è giusto, c'ha ragione. Se, ma io non è che non so legge, è che qui c'è un periodo di 10 righe senza né una virgola né un punto, è ovvio che ti manca il fiato, non reggo, non sono così bravo in apnea. Però questo scrive così, almeno qui è riportato così, c'è questo periodo, 10 righe, che non, e poi non si capisce bene. Quindi non capiamo questa dialettica tra Minniti e Gabrielli che cosa porterà. Ecco, poi qualcuno dice: riportiamo tutti a furor di popolo, riportiamo gli irregolari nei paesi d'origine, ma non è affatto semplice, gli ricorda qualcuno, a parte il reato di immigrazione clandestina che contrasta e finora ha impedito in quei casi in cui era possibile il rimpatrio, c'era il reato in corso, e quando c'è un reato in corso non lo puoi portare, se il reato l'ha fatto qui deve esplitare tutte le cose, quindi grandi geni quelli che hanno. E poi tra l'altro questo governo è stato più volte, il governo appena passato Renzi, più qualcuno o qualche parlamentare aveva chiesto l'abolizione, però hanno detto che non era sarebbe stato giusto abolirlo, abrogarlo, però non era giusto perché nel contesto in cui ci trovavamo, anche lui una frase lunga, 15 righe senza un attimo di sosta, non sanno scrivere, non è cattiveria. Prima hanno tutti detto che quelli che stanno, che sono questi a rischio terrorismo, sono persone poco colte, poco acculturate, cioè, invece loro non sanno scrivere. Vabbè, a parte questo, il problema è che ci stanno mille difficoltà, i costi per i rimpatri, perché non è uno scherzo, le resistenze degli stati riceventi che devono concedere in nulla osta, non è che lo puoi portare così, ci vuole appunto, in base a degli accordi bilaterali, il nulla osta del paese ricevente. E quindi attualmente dice soltanto Egitto, Tunisia e Nigeria accettano di riprendere i propri connazionali, sia pur tra mille difficoltà e sempre con l'impegno di Roma a organizzare i voli charter per il rientro, cioè purché i voli li paghi il paese che li riporta, ossia l'Italia in questo caso. Vabbè. E quindi Minniti, grande ministro degli interni, partirà a breve per una missione in Africa che abbia come obiettivo la firma di accordi bilaterali con altri governi che prevedano anche l'avvio di progetti di sviluppo in quelle aree per la concessione di aiuti proprio per cercare di scoraggiare le partenze, un progetto che necessariamente ha come punto di partenza la Libia. A capire che cosa sta succedendo lì non lo sa nessuno, lì dove si ammassano le persone che vogliono raggiungere l'Europa e transitano, eccetera eccetera. Vabbè, questo vedete che insomma grande è il disordine, la confusione sotto il cielo, e la situazione non è affatto eccellente. male, anzi. E ora affrontiamo un tema di tramai oggi. Diciamo, abbiamo un po' anche ironizzato sulle baggianate che dicono questi signori potenti o comunque che hanno in mano la vita di, non solo delle persone recluse, ma anche un po' degli altri. Però era giusto, insomma, metterli un po' in berlina, perché le stupidaggini che dicono sono veramente eccessive, insomma, oltre il consentito. Dunque, vediamo un dramma che il carcere ne produce tantissimi. C'è stato un detenuto con gravi problemi psichici che è ristretto in isolamento al 41 bis da 6 anni, è una cosa che è spaventosa. Lo solleva l'associazione Yariahia, è una onlus che si occupa di queste situazioni situazioni. Sì, dunque, questa è una persona di 56 anni, un uomo di 56 anni siciliano, che è stato nel carcere di Voghera fino a ottobre scorso, in uno dei braccetti speciali, quelli dell'isolamento totale, non solo il 41 bis, ma addirittura isolamento totale. Intanto c'è da ricordare che l'isolamento totale è ritenuto, non da noi, figurate, ma dagli organismi internazionali che si occupano della vita delle persone recluse, una vera e propria tortura, e non si può prolungare in tempi lunghi, un mese, due mesi, in genere in gran parte della media è che non più di un mese di isolamento, si arriva al massimo a 3 mesi e può essere interrotto. Invece questo c'è stato 6 anni. Allora, fino a ottobre è stato in carcere di Voghera, questi braccetti speciali che sono orribili, isolamento totale. E proveniva da un altro, prima di arrivare a Voghera, da un altro isolamento totale, quello del 41 bis, dove non sei in isolamento totale, però stai in isolamento abbastanza. E aveva, nel carcere precedente a quello di Voghera, aveva manifestato i primi sintomi di instabilità psichica. Considerate che la tortura, che appunto l'isolamento, che è dichiarato tortura, uno dei più gravi fatti di tortura, la prima cosa che produce è proprio instabilità psichica. Uno comincia a sentire cose che non sente, parole strane, voci, perché chiaramente, visto che la condizione di isolamento totale non è a dimensione umana, cioè l'essere umano non è portato a quella cosa lì, è chiaro che costretti a quelle condizioni, dopo un po' dai segni di irrequietezza, cioè non tranquillità, sintomi di instabilità psichica. 5 anni, dal 2011 al 2016 è stato in isolamento totale e ovviamente ha preso una serie di patologie psichiche. Chi l'ha visto, dice, a un certo punto qualcuno che l'ha visto, che è entrato in carcere, ha visto una persona di quelli che nei film dell'orrore, un uomo delle caverne, nudo, barba lunghissima, sporco, con gravi problemi psichici e privo di contatti umani. Nelle carceri italiane, in questi giorni, questo è successo. Il garante, questa associazione ha interessato il garante, questa figura, il garante dei diritti dei detenuti, questa figura che dovrebbe stare dalla parte dei detenuti, ancora una figura poco precisata dalle norme, però insomma, e che ha interessato un parlamentare di questo fatto. Il parlamentare ha più possibilità, può entrare in carcere quando vuole, può parlare col ministero, eccetera, di fare le opportune verifiche. Il parlamentare, di cui non ne fa il nome, ha cominciato a muoversi, poi si è fermato, evidentemente ha avuto qualche stop, non si capisce perché, da chi, tutto segreto, vi sembra di fare leggere un film di fantascienza del Medioevo, vabbè. E allora, comunque, questo movimento del garante e del parlamentare hanno fatto sì che fosse trasferito questo uomo di 56 anni in osservazione psichiatrica da Voghera all'Orusso Cotugno di Torino, quest'altro carcere, però per osservazione psichiatrica, quindi con un motivo. Inoltre, la cosa strana è che la cartella clinica di questo uomo, questo recluso, dalla cartella clinica è sparito il periodo passato nel carcere di Voghera, è stato completamente cancellato. Perché è sparito? Ma i misteri del paese Italia. Vabbè, poi hanno messo in moto un po' di cose, ma non ne sortisce niente. Ora, loro dicono: non è normale che l'amministrazione penitenziaria violi persino i suoi stessi regolamenti. Allora, scusate, io suggerisco a queste persone, sicuramente di buoni intendimenti, che lo fa regolarmente. I regolamenti sono una cosa, la realtà è un'altra. Vale in carcere al 99%, ma vale ovunque. Non pensate che le leggi o i regolamenti cambino la realtà, è al contrario, è la realtà che poi impone un certo tipo di regolamento o di legge. Questa è illusione. Questa cosa è gravissima, però è successa in Italia questi giorni qua, se ne occupano qualcuno. Insomma, 6 anni in isolamento totale è veramente un crimine contro l'umanità. Torneremo a parlarne di questa cosa, adesso dobbiamo smetterne perché è finita l'orario, sono le 16 in punto. E noi intanto diamo l'appuntamento fra 15 giorni. Come sapete, la conta no.